giorno si farà la pace. Se mi perdonerai l'imperdonabile, e prego che ne sia capace. Riprendermi con te e ricominciare da due che fanno pace, divisi fino a ieri, sì ma oggi più vicini e sinceri. Ehi tu, che cosa ne vuoi fare di questo nostro amore? Se questa libertà a volte fa sbagliare e fa precipitare fra orgoglio e delusione, ma se il perdono c'è, riprendimi con te. Mi arrenderò un po' a te e tu un poco a me, e sul tavolo due mani in pace si stringeranno forte, forte, forte, ed il rancore si farà da parte. E tu lo vuoi ricostruire nostro grande amore, sapendo che però a volte si può sbagliare, ma non precipitare, hai tempo per pensare, e se il perdono c'è, riprendimi con. Se mi perdonerai l'imperdonabile.